Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. For the vase and sack? That's us. And I'm Daphne. This is Joe Zavine. Yeah. I'm Sugar Cane. Hi. Sugar Cane? Yeah, I changed. It used to be Sugar Kowalczyk. You Polish? Yes. I come from this musical family. My mother is a piano teacher. My father was a conductor. Where did he conduct? On the Baltimore in Ohio. You think it's too hard to remember? Just remember that letters gonna switch to numbers, but your number, you stand. It's a bit of fate. Surrender at last. With spins of mirrors lost with the pain. It was fun, but then I guess. Giugno 1958. Ed ecco, mi ritrovo ancora una volta a tu per tu con la mia anima fiacca e leggera. Signore, ma com'è possibile seguitare così? Seguitare alla cieca, senza alcun conforto. Andare, senza sapere dove né perché. Stanotte è morta una mia vecchia zia che non vedevo da anni, molti. Orribile cadaverino di una ormai incomprensibilmente remota. E in verità non è stata. E non è per lei la mia angoscia. Io per me stesso tremavo che a quanto pare dovrò ben presto seguire quella strada e non sono a ciò in nessun modo preparato. Questo era l'incipit di Rien va di Tommaso Landolfi. Seconda parte di Eclettica del volume numero 4 con Giulio Caperdoni tutti i giorni fra le 19 e le 20. Dopo avervi velocemente ricordato il fatto che avete già ascoltato tre canzoni, la prima dell'islandese Borko, poi gli italiani Yuppie Flu e infine gli statunitensi 13 Ghosts, oltre che le parole dell'incipit di Tommaso Landolfi e le voci di Marilyn Monroe, Tony Curtis e Jack Lemmon, vi voglio leggere delle parole che arrivano da Antlon, da Pisa. Rock FM è la mia vita. Ottobre 1997, arrivo a Pisa, primo anno di università, tutto nuovo. Lasciavo la Sardegna per una nuova vita, avevo 18 anni. Una sera rientro da una festa universitaria, mi sdraio sul letto, non ho voglia di dormire. Accendo la radio, metto le cuffie, inizio a girare per le frequenze. A un certo punto mi fermo. Riconosco la canzone, sono i Metallica. Sad but true. Possibile? I Metallica alla radio? Rimango sintonizzato. Continua una programmazione incredibile, inedita. Mai sentita in vita mia una radio rock in Italia. Da quel momento non ho più cambiato frequenza. Ai tempi eravate di meno. Ricordo Claudia, le sue interviste in inglese, i Tour de Force. Quante risate, la numero uno. Poi De Rio, Roccia, Garavelli. Poi dei personaggi incredibili come il Faulisi, che faceva un programma di musica country. Fantastico. Mai sentito nulla di simile in radio. Grazie a lui ho scoperto che adoro il bluegrass. Scopro il blues, anzi, imparo il blues, grazie a Fabione Treves. Io ero orientato sul punk, rock, ska, metal, hardcore. La radio con la sua programmazione ha arricchito e ampliato i miei orizzonti musicali. Una sera ricordo di aver lasciato la radio accesa in camera, mentre preparavo la cena, era molto tardi. Sento in sottofondo una canzone, assurda, non finiva più, poi la lettura di una pagina di un libro. Era Giulio. Il brano era Frankie Teardrop dei Suicide, era Eclettica, era la prima volta. Vi dico solo che la tesi di laurea l'ho scritta ascoltando Eclettica, anche grazie al podcast. L'Ariel, con Frigidaire, i pomeriggi al lavoro a scherzare con lui via email, ci inventavamo le rubriche con gli altri radioascoltatori. Eravamo un bel gruppo, non lo dimenticherò mai. Anche perché in quel periodo facevo un lavoro che adoravo, anche se pagato 2 lire. Sono un programmatore. Ora sono passato dall'altra parte. Edo, un grande, simpaticissimo. Ho adorato Illegal, per citare una delle sue creature. Con molti di voi ho avuto il piacere di parlare di persona, di musica, di vita. Noi, come tanti altri che fanno parte della famiglia di Rock FM e non, viviamo di musica. Mox, che quando l'ho conosciuto sembrava quasi più felice lui di conoscere me, che sono un semplice radioascoltatore, che non il contrario, per dire che belle persone che siete. Il vostro atteggiamento verso di noi, come tra amici di una vita, mi ha sempre colpito e non l'ho trovato spesso in altri ambienti radiotelevisivi. In genere tutti, appena possono, se la tirano da matti. Ho vissuto tutte le vicende della radio, ho lottato, ho sperato, ho pianto, ho gioito con voi. Ultimamente casini, lavoro e brutte storie mi hanno un po' allontanato, ma ci sono sempre. Anche questa volta sono con voi. Si sa che il corpo è fragile e la vita violenta, ma teniamo duro fino alla fine. Se ci sarete voi, ci saremo anche noi. Io mi permetto di modificare leggermente la chiusura, Antlon, non volermene. Se ci sarete voi, ci saremo anche noi, però detta da me, che assume un altro significato. Ed ora è arrivato il momento della musica, dopo tante belle parole. La Svizzera, che non compare così tanto spesso in Eclettica, Colorblind, la formazione che ruota attorno a 2 fratelli, Mudry, stiamo parlando quindi di Svizzera francese, sono usciti nel mese di febbraio per la Phoenix Recordings con un album intitolato Under a Paper Moon, dal quale vado ad estrarre Anti-Love Song. Thank you. slowly close my eyes, learn to sleep tonight. I'm no longer will I share I'm a man. Well, nobody's perfect. I'm not trying to be unfair. It's just that negative thinking can ruin your life. Negative thinking. Negative thinking. Negative thinking. In Castiglia avevano venduto polveri di antimonio e sali di mercurio durante un mistero rappresentato per 25 giorni. Tra il pubblico era scoppiata un'epidemia di febbre eruttiva. Donato biascicava versi in latino, Sancia preparava tisane di matricaria. La piccola Joanna, stringendosi addosso al lacero mantello di velluto, guardava mentre Morte e Beltà, i cinque sensi e l'angelo si aggiravano tronfi sulla polvere color ocra. Si avvicinava la fine del secolo. Dalle nuvole pioveva sangue e in Francia una tripla luna funestava al cielo notturno. Un fulmine si era abbattuto sul Vaticano, scaraventando il Papa dal suo trono. Infuriavano pestilenze ed epidemie, ma erano necessarie al commercio di Donato Zullian. Questo era l'incipit di Sussurri in un giardino all'italiana, di Judith Lennox. Thank you. Eclettica, stagione numero 14, ma anche l'ultima. Settimana numero 22, volume numero 4. Indice, The Felici Brothers, Don Cavalli, Willard Grant Conspiracy, Jim Noir, Sheer Water, Shout Out Louds, Borco, Yuppie Flu, 13 Ghosts, Color Blind, The Death Set, Devastation. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.